Benvenuti all'appuntamento del martedì, replicato il giovedì, lo spazio di Hard & Heavy offerto da Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano, sito internet www.mariposadischi.it. La voce di Marco Gravelli, tutti i testi preparati dal nostro autore Simone, una puntata, devo correre un po' perché tra circa 20 minuti cederò il passo a Kay Hansen e a Claudia, Kay Hansen dei Gamma Ray, per presentare il loro nuovo album in anteprima qua su Rock FM. Avremo modo di ascoltare alcune tracce, abbiamo già avuto modo di ospitarlo qualche settimana fa, intervistato per noi e per voi dalla nostra Claudia. Ma iniziamo con le novità di questo periodo. Shaman, gruppo creato nel 2000 da tre ex membri degli Angra, esce questa settimana questo terzo album da titolo Immortal su etichetta Scarlet Records. Ricordiamo che i membri ex membri degli Angra erano il cantante André Matos, il batterista Luis Mariotti, il bassista Riccardo Confessori, e come chitarrista viene reclutato Ugo Mariotti, fratello del batterista. Dopo un demo viene pubblicato l'album Desordio Ritual, che ottiene un ottimo successo. A testimonianza del successo uscì nel 2003 il DVD Ritual Live. A metà del 2005 era uscito il secondo album Reason, che deluse le aspettative. Arriviamo ora a questo terzo album, dove troviamo ben tre novità: sostituzione del bassista, chitarrista e soprattutto del cantante, con l'ingresso di Tiago Bianchi, che ha il compito arduo di sostituire André Matos. Unico elemento storico ora rimasto il batterista Luis Mariotti. L'album è stato anticipato dal singolo In the Dark. Il pezzo che andiamo a proporvi si intitola Strength. album Immortal Strength, un estratto da questo nuovo lavoro per i brasiliani Shaman, in uscita questa settimana, ripeto, su etichetta italiana Scarlet Records. A ben 7 anni di distanza dall'ultimo album in studio, invece, è arrivato il nuovo dei Lizzie Borden. Si intitola Appuntamento con la morte, anche perché è un concept il cui tema è proprio la morte. La band è formata da 4 elementi, tra cui spicca l'ex chitarrista dei Vicious Rumor, Ira Black. Ci sono per l'occasione tanti special guest, quale George Lynch dei Doc and Lynch Mob, De Menichetti dei Y&T, Cory Beaulieu dei Trivium e Jonas Hanson dei Silver Mountain. Lo scorso anno, ricordiamo che la band è ritornata ad essere Lizzie Borden dopo un cambio di nome in Starwood, e finalmente hanno pubblicato questo nuovo album, Appuntamento con la morte, uscito su etichetta Metal Blade. L'album è stato mixato da Eric Rutan degli Eight Eternal ed ex Morbid Angel. Ricordiamo che la band ha avuto un ottimo periodo di successo negli anni 80, è stata creata proprio dal leader cantante Lizzie Borden. Andiamo ad ascoltare allora il brano che dà il titolo all'album, Appointment with Death, Lizzie Borden. Appointment with Death, così cantano gli Lizzie Borden dall'omonimo nuovo album. Continuiamo con Gary Hughes, già leader dei Ten, una delle migliori band AOR del settore, soprattutto in Europa, essendo inglesi. però con una sua carriera solista anche già avviata. In effetti pubblicherà il 21 di novembre questo nuovo album, dove lui ha suonato tantissimi strumenti insieme a tanti altri musicisti. La sua carriera comincia nel 1989 proprio con un album solista dal titolo Big Bad Wolf, che curiosità, l'anno successivo fu ristampato con il titolo di Strength of Heart. Segue quindi l'omonimo album nel 92, mentre nel 96 forma i già citati Ten, con i quali ha inciso ben 8 album in studio. Tornando alla sua carriera solista, la sua ultima uscita era venuta nel 1998, mentre nel 2003 era uscita la sua opera rock suddivisa in due parti, il concept Once and Future King, parte 1 e parte 2, che vedeva la presenza di numerosi special guest. A 4 anni di distanza uscirà a metà della prossima settimana su Frontiers Record questo nuovo Veritas, che si compone di 12 brani registrati presso gli Arena Studios in Inghilterra, che a detta dello stesso Gary sono le più pesanti mai scritte. Vabbè, vediamo un po', andiamo a sentirlo. Anch'io sento per la prima volta questo brano che si intitola Seal of Through My Eyes, da Veritas, Gary Hughes in Arden Devi. Da Veritas, See Love Through My Eyes, dal prossimo lavoro solista di Gary Hughes. Arriviamo anche per questa sera all'appuntamento con le Metal News e dopo all'intervista con i Gamma Ray insieme a Claudia. Cominciamo con gli Stone Warrior, power metal band tedesca. Ha stipulato un contratto con la Dockyard One. Nel frattempo procedono le registrazioni del terzo album dal titolo Hidden North, che sarà mixato dall'esperto Pete Silk, mentre la masterizzazione sarà curata da Tommy Hansen. Il batterista dei Manowar, Scott Columbus, durante un'intervista ha reso noto che sta lavorando al suo primo album solista, che si preannuncia interamente strumentale. Si intitolerà Dark Floors, The Lordi Motion Picture, il film horror che vede protagonisti i Lordi, la cui uscita è prevista per il febbraio del 2008. Attenzione, perché i Queensryche, la band americana, ha reso noto che per un'emergenza personale il tour in Europa è stato interamente cancellato e pertanto anche la data di Milano. Queensryche cercheranno di recuperarle il prossimo anno. La band svedese dei Therion ha reso noto che nei tre concerti prenderà parte come vocalist Messiah Marcolin, ex Candlemass, concerti di Budapest, Londra e Parigi. La band danese dei Royal Ant sta completando le registrazioni del nuovo album, ancora senza titolo, che sarà il seguito del loro quarto album, Paradox, quindi è un concept. Il mixaggio avverrà alla fine del mese. Come special guest ci sono Dougie White, Jacob Mousin e Rainbow, Ian Perry degli Elegy, Kenny Labak dei Narita e soprattutto Henrik Brockman, che è stato il primo cantante dei Royal Ant. Parliamo della band israeliana Amasfer, del batterista Erez Yonan, che ha completato il nuovo album. Cantante in origine doveva essere Andy Kunz dei Vanden Plas, ma in maggio se n'è andato. Il suo posto è stato preso da Mats Levin, già con Therion, Malmsteen e Advance. L'album sarà il primo di una trilogia. Come special guest ci sarà anche Angela Grossov, la cantante degli Arch Enemy. E arriviamo ai Bloodbound. In seguito all'abbandono del bravissimo vocalist Michael Bourne, la heavy metal band svedese ha resa nota l'ufficialità del rientro in formazione del precedente cantante Urban Breed, con il quale avevano registrato l'album d'esordio. Il pezzo che ascoltiamo si intitola The Tempter, da Book of the Dead i Bloodbound, e a seguire Kay Jensen, Gamma Ray, intervistato in Hard and Heavy da Claudia. Yo! Le note si intitolano, le note del brano Road of Bones, come il titolo dell'album stesso, per questa band americana, precisamente del Texas, composta da 5 elementi, 2 sono fanciulle. La cantante Erika Swinchik, ex componente degli Autumn Tears, e anche una dei 2 chitarristi, uno maschio è Stuart Lawrence, ex Agony Column, e invece l'altra chitarrista si chiama Anna Moore. La band arriva, abbiamo detto, dall'America, si chiamano Igniter, questo loro album d'esordio viene pubblicato proprio da un'etichetta italiana, perlomeno in Europa, che è la Cruz del Sur. Il lavoro è stato già ben accolto dalle riviste specializzate, soprattutto tedesche, dove cito ad esempio Rock Hard, che viene stampato anche in Italia, il cui demo precedente alla pubblicazione di quest'album era il demo del mese. La prossima band invece la conosciamo molto bene, recentemente li abbiamo avuti ospiti per parlare di questo Gambling with the Devil. Stiamo parlando della formazione degli Helloween, è il loro 12° album per questa band che arriva da Amburgo. Ricordiamo che la lineup risale addirittura al 1978 con il nome di Gentry, creata dal chitarrista Kay Hansen, ora nei Gamma Ray, e da Pete Silk, ora negli Iron Savior. Per quanto riguarda il nome, da prima erano Gentry, poi si fanno chiamare Second Hell, quindi Iron Fist, fino al 1982, quando l'ex batterista Ingo sceglie il nome di Helloween. Il loro esordio risale all'85 con l'omonimo EP, che anticipa di qualche mese l'ottimo album d'esordio Walls of Jericho, seguito poi dai 2 Keeper of the Seven Keys, usciti nell'87 e nell'88 e considerati 2 capolavori della band del power metal anche in genere. I 2 album ebbero un ottimo successo in tutta Europa, ma a causa di contrasti interni, nell'89 Kay Hansen lascia la band per formare i Gamma Ray. Seguiranno nel corso degli anni diversi cambi di formazione. Questo è l'ultimo, Gambling with the Devil, prodotto nuovamente dall'esperto del genere Charlie Bauernfeind, noto per i suoi lavori con Blind Guardian, Hammerfall, Primal Fear. Ci sono 11 brani più un intro, ricordo che suoneranno proprio insieme ai Gamma Ray e agli Exis il 27 e il 28 novembre, Roma e Milano. intitola Kill It. Dopo l'intro è il brano che apre il nuovo Gambling with the Devil. La formazione naturalmente è quella degli Halloween. Non mancano le metal news anche per questa serata. Cominciamo con i Brainstorm, il loro nuovo singolo per la band tedesca del cantante Andy B. Frank. Funziona bene, il singolo è Firewalk With Me, soprattutto in Ungheria, dove ha raggiunto la prima posizione delle classifiche ufficiali, anticipazione del nuovo album in studio della band dei Brainstorm. Andiamo in Finlandia con gli Him, registreranno due concerti il 14 e 15 novembre per la pubblicazione di un live album in CD e anche un DVD dal vivo, pubblicazione che è prevista per l'inizio del 2008. La gothic metal band svedese dei Draconian ha completato le registrazioni del nuovo quarto album, il cui titolo sarà Turning Season Within. L'album è stato registrato presso i Fascination Studios in Svezia e attualmente si trova in fase di mixaggio. Verrà pubblicato nel gennaio del 2008. Ad un anno e mezzo dal precedente Paradise in Flames, che ha raggiunto la posizione numero 45 in Germania, gli Axis pubblicheranno il 16 di novembre il nuovo album Dune of Destiny. Per quanto riguarda la lineup, c'è da segnalare il batterista André Ilgers, che milita da alcuni mesi anche nei connazionali Rage, oltre che già da tempo nei Silent Force. L'album è stato mixato dal celebre Dennis Ward dei Pink Cream 69, presenta 10 tracce, un intro, una bonus track cantata in tedesco e il videoclip del singolo. Noi andiamo ad ascoltare proprio il brano, in anteprima, il brano che dà il titolo all'album, Doom of Destiny, la formazione quella tedesca degli Axis. Thinking about our common ground. Dance, dance, let me il brano che dà il titolo al nuovissimo album per la formazione tedesca degli Axis. A proposito degli Axis, che accompagneranno Helloween e Gamma Ray in tour, a causa di motivi personali la corista Laconia non potrà prendere parte al tour. Al suo posto è stata chiamata la 28enne cantante rumena Ana dei Magica, che sono anche compagni di etichetta, che da poco hanno pubblicato questo loro terzo album. Album che si intitola Her Fear. Il brano che andiamo a proporvi si intitola Through Wine, per la formazione rumena dei Magica. Composto da sei elementi, creato dal chitarrista Bogdan Costea nel 2002, abbiamo detto arrivano dalla Romania, sono composti da sei elementi con la voce femminile di Ana Mdalovici. L'album si titola Here After, il pezzo era Through Wine. Altra band si cambia completamente sound con il 19° album di questo quintetto canadese storico, arrivano da Toronto, li abbiamo anche ospitati una volta, si chiamano Saga. Il leader e i fondatori della band sono il bassista Jim e il cantante Michael Sadler, nati nel 1970 addirittura col nome di Pocket, cambiato nel 77 in Saga, nel 78 viene pubblicato il loro primo album. Questo nuovo è uscito alla fine di ottobre, la scorsa settimana, si intitola 10,000 Days e noi andiamo a proporvi il brano che apre l'album, Lifeline. Thank you. il brano che apre il nuovo 10,000 Days per la formazione dei Saga, e siamo in dirittura d'arrivo anche per questa serata. Chiudiamo il nostro ultimo appuntamento della settimana di Hard and Heavy, poi c'è quello del venerdì con i live insieme alla band thrash metal italiana dei Necrodef, uscito a metà ottobre su etichetta Scarlet Records, il nuovo concept album dal titolo Draculea, che è stato registrato a Roma, masterizzato poi in Svezia. Per quanto riguarda la lineup, ora hanno in pianta stabile un nuovo chitarrista che si chiama Max. Sull'album le parti di chitarra sono state suonate da Pier Gonnella, chitarrista dei Labyrinth. Il pezzo che abbiamo scelto da questo Draculea si intitola Countless Bathory, e a questo punto arrivano anche di prassi i saluti da parte di Marco Gravelli. Un ringraziamento a voi che mi avete seguito. Ricordo di seguire, di ascoltare il programma di Claudia, perché come vi avevo anticipato ieri, venerdì sera Claudia nel suo spazio porrà una domanda agli ascoltatori. Uno di voi, il più fortunato, una domanda naturalmente legata al mondo musicale e alla vita di Tarja Turunen, ex cantante dei Nightwish, in uscita con il suo album solista. Lei sarà a Milano il prossimo lunedì 12 per promuovere l'album nuovo, e ci sarà l'opportunità di uno di voi di andare a cena con lei, grazie naturalmente all'etichetta discografica, la Universal, e rispondendo esattamente a una domanda che non vi porrò io, ma vi porrà Claudia il prossimo venerdì 9, quindi segnatevelo sull'agenda. Un grazie al nostro sponsor Mariposa, un grazie anche a Simone, il nostro autore. Vi lascio con i Necrodef, alla prossima, ciao!